giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Nuovi arrivi di migranti nell'Isontino, a Gradisca il Cara e Saturo, i richiedenti asilo dormono all'addiaccio, l'emergenza si aggrava. Liste d'attesa sempre più lunghe nei reparti di radiologia della regione, manca il personale, le nuove assunzioni non coprono i buchi in organico. Vertenza Varsila, confronto sindacati azienda che non torna indietro sulla decisione di dismettere la produzione a Trieste. Per le organizzazioni dei lavoratori urge un nuovo tavolo al Mise con il ministro Urso. Il CDA di Fincantieri approva un terzo trimestre con ricavi in crescita nonostante il contesto economico, in ripresa al mercato delle crociere, bene anche il settore militare delle navi offshore. Anche il mondo scientifico triestino affronta il caro energia. Tra i progetti finanziati all'Area Science Park con i fondi del PNRR, uno verte sull'idrogeno. Nasce il primo osservatorio della metalmeccanica per comprendere le reali necessità degli imprenditori del comparto. Oggi la presentazione. Ancora disagi per chi si deve spostare tra Palmanova e Manzano. Il ponte sul Torre, ulteriormente danneggiato dalla piena, per ora resta chiuso. Al vertice sul clima di Sharm el Sheikh, incontro tra la premier italiana Meloni e il presidente egiziano al-Sisi, cooperazione su gas e migranti, sollevato il tema dei diritti umani e la forte attenzione dell'Italia sui casi di Giulio Regeni e Patrick Zaki. Una delle più acclamate violiniste dei nostri tempi, Victoria Mullova, protagonista del concerto di questa sera al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, l'unico in Italia. L'artista si esibisce suonando un Guadagnini e uno Stradivari del Settecento. Sport, Udinese impegnata fuori casa contro lo Spezia, imperativo provare a vincere dopo un periodo non propriamente fruttuoso, 4 pareggi e una sconfitta. Buona giornata per questa prima edizione del nostro giornale radio da Lara Zani ed Elisabetta Zaccolo. Subito uno sguardo al meteo prima di entrare nel vivo delle notizie. Il cielo è poco nuvoloso sulla regione. Queste le temperature registrate poco fa. Trieste 9 gradi e 5 decimi, il mare calmo con una temperatura di 19 gradi e 5 decimi. A Udine 5 gradi e 5, a Gorizia 5, a Pordenone 4, a Tolmezzo 5 gradi e 5 decimi, a Forni di Sopra 4 gradi e 5 decimi, a Piancavallo 1 grado, a Sappada e Tarvisio 5 decimi di grado sotto lo zero, sul Monte Lussari e il Monte Zoncolan 2 gradi e 5 decimi, a Grado e Lignano 10 e 5, la temperatura del mare è di 15 gradi. Le previsioni per oggi dell'ARPA Friuli Venezia Giulia. Tempo stabile con cielo in genere poco nuvoloso per velature, in serata aumento della nuvolosità. A Gradisca, a Disonzo, si cerca una soluzione ad un problema che si sta aggravando di giorno in giorno. L'emergenza che vede da tempo un continuo afflusso di richiedenti asilo a fronte della saturazione delle strutture. Ieri è arrivato un nuovo corposo gruppo di migranti, il Cara è ormai saturo, i migranti dormono all'addiaccio e le temperature stanno scendendo. E interviene anche la Chiesa. Almeno 150 stranieri si sono presentati alla spicciolata negli uffici della polizia alla Casa Rossa di Gorizia per l'identificazione. Numeri straordinari, in gran parte egiziani, ed è questa la novità. Molti di loro, peraltro, erano stati già fotosegnalati in questure del Sud Italia subito dopo lo sbarco, motivo per cui sono stati reindirizzati lì. Per tutti gli altri, provenienti dalla rotta balcanica, comincia invece un periodo di attesa di un posto in accoglienza che per ora non c'è. A Gradisca circa 50 pakistani dormono in strada e nei parchi. Non era mai successo prima. I più fortunati hanno una tenda o la copertura di un supermercato. Gli altri invece sono completamente esposti alle intemperie. Nessun tetto, nessun pasto caldo, né tantomeno una doccia per settimane. Stanotte non siamo riusciti a dormire per il troppo freddo, viviamo come animali, dice il 25enne Asib nell'accampamento davanti al Cara di Gradisca. Attendono là davanti con le loro 4 tende che si liberi un posto perché la struttura di accoglienza con 700 ospiti è satura. Un altro gruppo bivacca al Parco degli Artiglieri. I trasferimenti di migranti verso il resto d'Italia sono fermi da 2 settimane proprio per la mancanza di posti e gli arrivi sono ancora numerosi. La principale ragione, spiegano gli stessi migranti, è una maggiore permeabilità del confine tra Bosnia e Croazia, fino a mesi fa praticamente blindato. Per alleviare la difficile situazione di Gradisca è scesa in campo anche la Chiesa, obiettivo fornire almeno un riparo notturno. Carlo Roberto Maria Redaelli, arcivescovo di Gorizia e presidente della Caritas italiana. Aspetta anzitutto le istituzioni intervenire, ma noi come Caritas certamente quella che potremmo dire un'accoglienza a bassa soglia, diciamo di emergenza, sicuramente quello siamo sempre molto disponibili, poi sperando che poi venga affrontato nelle sedi opportune anche questa problematica. Come sempre mi capita di dire che il tema della migrazione è un problema complesso e non ha soluzioni semplici. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Manca personale nelle radiologie della sanità regionale. I sindacati segnalano una situazione in progressivo peggioramento tra taglio dei servizi e liste d'attesa sempre più lunghe. La carenza di personale nelle radiologie costringe le aziende sanitarie a correre ai ripari con la riorganizzazione del servizio. Nella Friuli Centrale il direttore generale Denis Caporale fa sapere di essersi affidato a degli ingegneri gestionali per rivoluzionare le agende in base al personale disponibile e cercare di rispondere il più possibile nei tempi più rapidi all'utenza, pur nella consapevolezza, puntualizza, che il problema riguarda tutta Italia e non si risolve dall'oggi al domani. I suoi effetti intanto si rilevano nelle segnalazioni di sindacati e utenza. Dall'anno e mezzo di attesa per un appuntamento per una mammografia, segnalatoci da una paziente oncologica dell'azienda sanitaria del Friuli Occidentale, all'impossibilità di prenotare in tempo utile lo stesso esame in una qualsiasi struttura pubblica della regione, lamentata da un'altra paziente oncologica seguita nell'azienda sanitaria Giuliano Isontina, che è dovuta ricorrere al privato a pagamento pur avendo l'esenzione. Il segretario regionale del sindacato Area Radiologica, Stefano Smania, parla di drastica riduzione del servizio di ecografia e TAC negli ospedali del Pordenonese, così come in quelli di San Daniele e Udine e sempre nel capoluogo friulano anche all'Istituto Gervasutta, dove, riferisce ancora Smania, il servizio di radiologia viene assicurato agli esterni solo due volte alla settimana da radiologi in prestito dal Santa Maria della Misericordia e solo in emergenza ai pazienti interni. Al CRO di Aviano il direttore sanitario Nelson Trua spiega di aver dovuto assumere un ottavo radiologo per far fronte alla domanda. Le nuove assunzioni non coprono i buchi in organico, rilancia Smania, che da tempo chiede una pianificazione strategica e segnala come la carenza incida anche sull'area dell'emergenza-urgenza. E c'è anche il paradosso: se nel pubblico le liste d'attesa sono sempre più lunghe, osserva da ultimo il portavoce dei radiologi, nel privato accreditato vi sono casi in cui i posti disponibili vengono lasciati vuoti dal CUP, tanto che si sta pensando di ridimensionare il servizio. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Apriamo la pagina del mondo del lavoro con l'avvertenza Varsila. Ieri un altro lungo incontro si è tenuto, 4 ore di confronto tra aziende e rappresentanti sindacali nazionali dei metalmeccanici, che hanno chiesto con urgenza la convocazione del tavolo ministeriale al Mise con il ministro Adolfo Urso. Varsila è chiara nel ribadire che dismetterà la produzione del sito di Bagnoli della Rosandra, in barba alla sentenza del Tribunale di Trieste che ha dato ragione ai sindacati e congelato i 450 licenziamenti. Non è ancora pronto per parlare al nostro microfono il nuovo amministratore delegato di Varsila Italia, Michele Cafagna, ma ha parlato e a lungo con i sindacati confederali CGL, CISL e UIL Metalmeccanica. È stata la seconda parte dell'incontro, iniziato 10 giorni fa e imposto all'azienda dal giudice in nome del diritto dei lavoratori a essere informati in merito alla reale condizione di salute dell'azienda. Intanto ci sono 4 motori già pronti e in consegna nei prossimi giorni, ma senza una visione futura i sindacati li bloccheranno. Il segretario nazionale della FIM CISL, Massimiliano Nobilis. Vogliamo anche una risposta dal governo e dal Parlamento entro il 22 di novembre, perché deve essere convertito in legge quel decreto che ha allungato i tempi della procedura della 234 fino a 6 mesi. Se non c'è questo provvedimento le cose si complicano anche per i lavoratori di Varsila. I sindacati hanno chiesto una settimana fa al neo ministro dello sviluppo economico Adolfo Urso di convocare un tavolo per capire il ruolo che il nuovo governo intende esercitare. Attendono ancora una risposta. Luca Trevisan, segretario nazionale FIOM CGL. Varsila non può pensare di spostare la produzione, depauperare un territorio, far perdere salario, ricchezza ai lavoratori e a questa città e di farlo anche con il consenso sindacale e sociale. Questo non è nelle disponibilità nostre, abbiamo chiesto un incontro al governo e ovviamente al governo chiederemo di essere conseguente con l'importante sostegno dato ai lavoratori di Trieste e di trovare le opportune soluzioni industriali in grado di garantire la continuità produttiva, occupazionale e di reddito. Sui lavoratori continua ad oscillare la spada di Damocle. Antonio Rodà, segretario UILM Friuli Venezia Giulia con delega nazionale. Serve portare avanti il gran lavoro che abbiamo fatto fino a qui, ovvero l'unità da parte di tutte le istituzioni e di tutti gli schieramenti politici. Anche su questo abbiamo fatto recentemente un confronto con tutti i neo eletti parlamentari della nostra regione che hanno assunto l'impegno di portare avanti la vertenza Varzila e di sostenerla con il governo e di ribadire un concetto molto chiaro. Questa fabbrica deve continuare a fare motori, deve continuare ad essere una fabbrica inserita nella filiera dell'industria navalmeccanica del nostro paese. Sandorligo della Valle, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Fincantieri, il Consiglio di amministrazione ha approvato i conti dei primi 9 mesi del 2022, che registra una buona crescita dei ricavi a più 17%. Il terzo trimestre ha visto i primi chiari segnali di ripartenza degli ordinativi cruise, con una richiesta di navi equipaggiate con le tecnologie all'avanguardia e alimentate da motori di nuova generazione, ha commentato l'amministratore delegato Folgero. Nuovi operatori nel settore delle navi extralusso, a conferma della ripresa del mercato croceristico, e anche il settore militare e delle navi offshore mostra un trend molto interessante, sia nel breve che nel medio-lungo termine. Nel 2022 sono state consegnate 12 navi da 8 stabilimenti. Fincantieri punta a rafforzare ulteriormente il proprio posizionamento competitivo nell'industria internazionale della meccanica, sottolinea Folgero, pur in un periodo economicamente difficile. Nasce il primo osservatorio della metalmeccanica per comprendere le reali necessità degli imprenditori del comparto. Il cluster Comet, Area Science Park e le università di Trieste e Udine, Intesa San Paolo, hanno lavorato sinergicamente per mappare il panorama produttivo regionale. A illustrare i risultati, che saranno presentati questo pomeriggio nella sala convegni di Friuli Innovazione a Udine, il direttore di Comet, Saverio Maisto. Inevitabilmente l'anno pandemico, il periodo pandemico che abbiamo vissuto ha rappresentato un trauma, uno shock per il comparto metalmeccanico, così come per tutti i comparti, quasi tutti i comparti della nostra regione. Abbiamo superato in maniera straordinaria e in maniera straordinariamente dinamico però lo shock. Abbiamo dimostrato che gli andamenti delle piccole imprese nel 2021 rispetto al 2020 per il comparto e anche quelle delle grandi aziende, se le confrontiamo tra 2021 e 2019, sono stati importanti. Abbiamo voluto quindi enfatizzare questo concetto, abbiamo voluto in qualche modo raccontare che nonostante la rapidità, la velocità con cui effettivamente stiamo vivendo questo periodo storico che probabilmente verrà studiato, le 5.162 aziende che lavorano nel comparto metalmeccanico dovranno essere capaci di reagire a una situazione economica produttiva che è in continua e sempre più rapida evoluzione. A che cosa servirà in futuro questo osservatorio? Noi riteniamo che questo osservatorio, che è un'attività che andremo a replicare semestralmente grazie appunto ai partner che hanno voluto partecipare al progetto, Università di Udine, Università di Trieste, Area Science Park, il Centro Studi di Intesa San Paolo, la banca, in qualche modo mettesse un punto di partenza, non di arrivo, una capacità di dialogare per ragionare sulla complessità del periodo che stiamo vivendo, una complessità che ovviamente diventa un aspetto fondamentale, ma che ci consente di affiancare, grazie proprio a questo osservatorio, anche le aziende proponendo progetti e servizi sempre più in linea con le esigenze del momento che stanno vivendo. Quindi, ripeto, non vuole essere un punto di arrivo, vorremmo che fosse un punto di partenza, magari anche dando dei segnali importanti alla regione. I fondi del PNRR finanzieranno 2 importanti progetti di ricerca a Trieste. Uno riguarda la prevenzione delle pandemie, l'altro un combustibile poco inquinante su cui si ripone grande fiducia per far fronte alle sfide energetiche. Stoccare l'idrogeno e trasferirlo in modo sicuro, ma anche identificare nuovi agenti patogeni potenzialmente pericolosi. L'Area Science Park di Trieste ha deciso di rispondere alle emergenze forse più sentite di quest'epoca, la crisi energetica e la paura di nuove epidemie. 2 i progetti che hanno ottenuto il finanziamento del PNRR che con 75 milioni di euro, di cui oltre 46 gestiti direttamente da Area, permetterà il potenziamento delle infrastrutture del Parco Scientifico di Trieste, a partire appunto dai materiali di ultima generazione che possono contenere e trasportare in modo sicuro l'idrogeno fino all'acquisto della camera di massima sicurezza per contenere e modificare i virus. Alessandro Marcello, direttore biologia molecolare ICGEB. Significa poter fare studi più all'avanguardia, essere competitivi anche con altri paesi. Questa è una struttura unica per l'Italia, e ci mette veramente in una posizione di poter fare ricerca d'avanguardia. La pandemia ci ha insegnato che non si può pensare di vivere in emergenza. È chiaro che ci saranno altre emergenze in futuro, non sapremo che patogeni saranno presenti in futuro, però quello che possiamo fare è continuare a fare ricerca di alto livello in questi periodi. Mai come oggi, grazie al PNRR, la ricerca è stata sostenuta, ecco perché la scelta di puntare sul rinnovo tecnologico. Caterina Petrillo, presidente Area Science Park. Attraverso la realizzazione di queste infrastrutture di ricerca noi lavoreremo per 3 anni a costruire e per i successivi 10 a sfruttare, o meglio a mettere al servizio del territorio, delle comunità scientifiche, delle comunità industriali, le nostre macchine, le nostre competenze acquisite. 36 le persone che verranno assunte grazie a questi 2 progetti e, come richiesto dal PNRR, meglio se donne. Anna Sirica, direttore Area. Il 40% delle assunzioni è riservato alle donne, quindi questo significa che a parità di punteggio verrà scelta una donna. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Spostiamoci nel Pordenonese, dove le aziende che hanno deciso di investire nel risparmio energetico installando pannelli solari possono essere assistite da un gruppo di professionisti messo in piedi dal polo tecnologico, che ha compiuto già 70 sopralluoghi. Al polo tecnologico di Pordenone è al lavoro una task force di professionisti per assistere le imprese nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Hanno già effettuato 70 sopralluoghi, coinvolto 130 aziende, dalle più piccole alle più grandi. Franco Scolari è il direttore del polo tecnologico. Dei 130, cioè forse il più piccolo è il mio, che deve essere un esempio, forse il più grande è Sincrotrone, un progetto ambizioso, Ronchi dei Legionari, che ha un progetto in via di grande finalizzazione, speriamo di avere 3,5 megawatt entro agosto per raffrescare i passeggeri che verranno all'aeroporto. Lavoriamo anche sulle CER, comunità energetiche rinnovabili, perché sono un modello intelligente di mettere insieme generazione e consumo, non solo l'autoconsumo. Confido che esca il decreto attuativo, perché siamo un piede avanti e un piede indietro. Daniele Floreane, un esperto di gestione energetica. Oggi il tema, per fortuna, è di moda, ma pur essendo di moda ha delle criticità. Intanto, in effetti, il mercato è molto mosso, vediamo variabilità di soluzioni e di prezzi. Si tratta di investire, quindi a valle dello studio vediamo molto spesso interesse e aspettiamo che poi si realizzino gli impianti, che vuol dire un impegno economico per le aziende. E c'è chi in questa direzione ha investito già da tempo. Alla Ronca d'Indi, Meduno, l'impianto fotovoltaico, arrivato a produrre 1,5 megawattora, si unisce a un parco auto aziendale che si sta convertendo all'elettrico, a sistemi di recupero delle acque di scarico e di efficientamento energetico sui tunnel di surgelazione, per un abbattimento delle emissioni di 600 tonnellate di CO2 l'anno. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. A Sharm el Sheikh, in Egitto, è in corso di svolgimento la conferenza internazionale sulla lotta al cambiamento climatico delle Nazioni Unite, al quale partecipa anche la presidente del Consiglio Meloni, che ha incontrato il presidente al-Sisi, al quale ha parlato della forte attenzione dell'Italia per il caso Regeni e per quello di Patrick Zaki. La presidente ha sollevato la questione del rispetto dei diritti umani e della cooperazione per raggiungere la verità e ottenere giustizia. E ieri è stata presentata dal consigliere regionale Furio Onsel di Open Sinistra FVG una mozione alla giunta regionale dal titolo che il governo vieti qualsiasi spedizione di materiale militare da Trieste all'Egitto. I principali siti che monitorano il traffico di armamenti, ha dichiarato Onsel, evidenziano come il governo italiano abbia autorizzato la vendita di materiale militare all'Egitto anche dopo le torture e l'uccisione di Giulio Regeni e la successiva mancanza di collaborazione del governo egiziano nelle indagini. Sono riprese all'alba le ricerche del pensionato di Cinto Caomaggiore disperso da sabato scorso a Chions. Nessuna novità nella notte, oggi in campo una quarantina di volontari delle squadre comunali di protezione civile, una decina di unità cinofile delle associazioni della protezione civile. E si battono le aree a confine tra Friuli Venezia Giulia e Veneto. E sempre all'alba di oggi, in un'abitazione di Tolmezzo, 2 persone sono rimaste coinvolte in un episodio di intossicazione intossicazione. Accidentalmente una pentola è rimasta sui fuochi, si sono sprigionati fumi nocivi. I vigili del fuoco hanno allertato la SORES, gli infermieri della centrale hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza. Una delle due persone coinvolte è stata trasportata all'ospedale di Tolmezzo per una lieve intossicazione. Continuano i disagi per chi si deve spostare tra Palmanova e Manzano. Il ponte sul Torre, ulteriormente danneggiato dalla piena, per ora resta chiuso. Domani ci sarà un nuovo sopralluogo. Il ponte sul Torre tra Palmanova e Manzano rimane chiuso. Il sopralluogo tecnico ha evidenziato che non ci sono le condizioni di sicurezza. Colpa dell'erosione sui pali di cemento, due in particolare, che li rendono vulnerabili ad ogni piena del torrente a livello delle fondazioni. L'ultima, 3 giorni fa. Misurate le vibrazioni che confermano la pericolosità di eventuali passaggi di mezzi pesanti e vetture. Il tutto anche alla luce del crollo della Briglia nel 2020 a difesa di un ponte già chiuso nel 2009 per problemi di erosione. Colpa però anche di un altro ponte, quello nuovo, che corre parallelo e che doveva essere pronto nel 2019 e invece, dopo il cedimento di una tubazione metallica e la scoperta che l'acciaio usato allora non era conforme ai requisiti di norma, vede ancora operai al lavoro e non si conosce una data di inaugurazione. Il commissario dell'ente di decentramento regionale, Augusto Viola, fa sapere che mercoledì ci sarà un nuovo sopralluogo tecnico sul vecchio ponte sul Torre. Con gli interventi di livellamento delle ghiaie e di copertura dei buchi, il ponte dovrebbe essere riaperto tra 2 giorni. La provinciale palmarina, Chiopris Viscone, fa da collegamento tra il distretto della Sedia e Palmanova. La deviazione porta all'ex provinciale 58, che collega Manzano con Percoto, oppure proseguendo per Medea, Versa e quindi la strada regionale 252, che porta a San Vito al Torre. Udine, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. La regione non sta facendo progressi nel miglioramento dell'ecosistema urbano. A dirlo l'ultimo rapporto di Legambiente, dove 3 capoluoghi del Friuli Venezia Giulia su 4 perdono qualche posizione nella classifica nazionale. Il Friuli Venezia Giulia rallenta in campo ambientale, ma in serbo comunque qualche nota positiva. La fotografia del rapporto Ecosistema Urbano 2022, a cura di Legambiente, è quella di una regione senza infamia e senza lode sul piano ecologico. Nella classifica nazionale perdono qualche posizione Trieste, Udine e Pordenone, che resta comunque tra le prime 10, mentre Gorizia sale di 2 posizioni. Sono piccole variazioni che però, secondo Legambiente, dimostrano l'urgenza di cambiare passo. Sandro Carnielutti, Legambiente Friuli Venezia Giulia. Tutto sommato i processi di cambiamento, no? Tenendo conto dei cambiamenti climatici, transizione energetica, transizione ecologica, sono ancora troppo lenti e per alcuni versi anche contraddittori. Udine ha una buona prestazione nella raccolta differenziata, dove arriva a sfiorare il 75%, mentre la media nazionale è del 61%. Ma ancora una produzione eccessiva di rifiuti, 542 kg per abitante, il dato più alto in regione. Male anche nel trasporto pubblico, dove scende da 108 a 60 passeggeri per abitante, con una riduzione pari al 44% rispetto al 2020. Buone notizie invece da Pordenone. La città è al 3° posto in Italia, dopo Treviso e Ferrara, per la raccolta differenziata, dove supera l'85%, ed è al 2° per la lotta alla dispersione idrica, dopo Pavia. Secondo Renato Marcon, referente Legambiente di Pordenone, sono buoni i risultati, ma c'è ancora da fare. La città è purtroppo prima per il tasso di motorizzazione, 70%, e quest'anno ha registrato un crollo nel trasporto pubblico, da 80 a 30 passeggeri per abitante. Udine, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Ultimo appuntamento con il ciclo di webinar che l'Associazione Bambini Chirurgici del Burlo di Trieste ha organizzato per accompagnare il bambino e la sua famiglia nel cammino di vita successivo alla cura ospedaliera e al rientro a casa. Oggi alle 18 si parlerà di discriminazione e utilizzo del linguaggio. Giulia Bresciani, responsabile dell'area progetti dell'Associazione, illustra il lavoro di ABC e il tema di oggi. Sicuramente sono molteplici gli aspetti su cui l'associazione cerca di supportare le famiglie ed è pertanto per questo motivo che abbiamo deciso di attivare questo nuovo progetto Tutela i diritti, che è partito alla fine dello scorso anno e che ha come obiettivo proprio quello di andare a supportare le famiglie anche da un punto di vista di conoscenza e informazione legale, che talvolta può risultare anche un argomento di difficile comprensione. Pertanto durante questo anno solare abbiamo svolto diversi webinar in collaborazione con un'avvocata esperta di inclusione scolastica e diritto antidiscriminatorio, proprio per andare ad affrontare tutte quelle che sono le tematiche relative alla scuola e a tutti gli aspetti che la legge 104 del 92 a tutela delle persone con disabilità determina e garantisce proprio per stare accanto alle famiglie e soprattutto ai loro bambini. In questo ultimo webinar si parla di linguaggio. Come il linguaggio influisce sull'inclusione delle persone con disabilità? Ancora oggi purtroppo capita di sentire o di leggere delle parole che possono avere un effetto negativo su chi le legge e chi le ascolta, soprattutto se le famiglie, i ragazzi, i bambini si trovano in alcune situazioni di fragilità. È per questo motivo che abbiamo deciso di affrontare questo argomento, proprio un argomento molto più trasversale rispetto a quelli che abbiamo affrontato precedentemente, che potevano riguardare la stesura del PEI, il PDP e appunto gli aspetti scolastici di cui parlavo prima. Proprio per cercare di avere un effetto e anche intervenire su quello che è l'ambiente circostante, quindi su tutte le persone che poi entrano in contatto. Crediamo fermamente che il linguaggio debba essere inclusivo e non discriminatorio ed è pertanto per questo motivo che abbiamo deciso di promulgare questo tipo di argomento e cercare di discuterne insieme all'avvocata e assolutamente a tutti i partecipanti. E ora lo sport con il calcio. Per il campionato di Serie A prova importante quella di questo pomeriggio per l'Udinese, impegnata in trasferta contro lo Spezia. I bianconeri, che giocheranno senza Udogie infortunato, devono riprendersi da un periodo non molto positivo, con 4 pareggi e 1 sconfitta. Fischio d'inizio alle 18.30. Oggi, pertanto, l'ultima edizione del giornale radio regionale andrà in onda alle 18.05. Che state sentendo il concerto numero 1 di Shostakovich, infatti in programma oggi l'unico concerto italiano della grande violinista russa Victoria Mullova con la celebre compagine elvetica Orchestra della Suisse Romande diretta da Jonathan Nott, che alle 20.45 saliranno sul palco del Teatro Nuovo Giovanni da Udine. La celebrata solista e la compagine elvetica sono impegnati in un breve tour internazionale che, partendo da Ginevra, li condurrà a Udine, quindi a Lubiana e a Budapest. Il programma spazia dal concerto di Shostakovich a Richard Strauss con il grandioso poema sinfonico Also sprach Zarathustra, celebre anche per la sua rocambolesca fuga dall'Unione Sovietica. Appena ventenne, Victoria Mullova è considerata tra le migliori violiniste della nostra epoca. Già ospite del Teatro Nuovo nel 2011 e nel 2018, l'artista si esibisce suonando un Guadagnini e lo Stradivarius del 1723. Sarà il capolavoro di William Shakespeare, Il mercante di Venezia, a inaugurare la nuova stagione artistica del Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Gorizia, in un nuovo allestimento firmato da Paolo Valerio. A interpretarlo è la compagnia di attori capeggiata da Franco Branciaroli nel ruolo di Shylock, l'usuraio al quale si rivolge Antonio, ricco mercante veneziano. Lo spettacolo in programma questa sera alle 20.45 apre una stagione con 27 spettacoli che andranno in scena in serata unica nel cartellone preparato dal direttore artistico Walter Mramor. Iniziamo la rassegna stampa dal Piccolo di Trieste, che ha in prima pagina la fotonotizia della nave da 1 miliardo di euro, un gioiello della Fincantieri. La Seascape in consegna il 16 novembre nei cantieri di Monfalcone, la più grande mai realizzata in Italia. Canale Ponte Rosso, SOS dei residenti, non si dorme più a causa della musica sparata ad alto volume dai locali della zona, esasperati i residenti. L'assessore comunale alla sicurezza De Blasio annuncia che verrà aggiornato il regolamento sulla movida. Migranti in strada, il comune frena sul dormitorio al Silos. Il comune attende infatti un confronto con il governo, ma le opposizioni sono all'attacco, l'inverno alle porte, decisione grave, dicono. L'ex azienda Principe chiude i battenti, in vendita allo stabilimento di Trieste. Addio a prosciutti e a würstel, la struttura sarà adibita a magazzino. Il Messaggero Veneto apre con la notizia dei 4 milioni di contributi per il caro bollette di Friuli e Civibank. Subito sotto la notizia dell'incidente a Manzano, nel quale ha perso la vita un motociclista 48enne che la scorsa notte è uscito di strada schiantandosi contro un palo dell'illuminazione. Un richiamo anche alla notizia della stretta di mano fra la premier italiana Giorgia Meloni e il presidente egiziano Al-Sisi, che segna la ripresa dei rapporti fra i due paesi dopo il caso Regeni. Di piede la notizia degli incarichi di vertice a due alpine friulane. In primo piano anche il ritorno dell'emergenza migranti a Gorizia, in 150, annuncia il titolo, accolti all'ex valico Casarossa. In cronaca la scelta del comune di Udine di puntare sulle auto elettriche, mentre a Gorizia approda in consiglio il bilancio consolidato e si tirano le somme degli effetti sulle partecipate del Covid prima e del caro energia poi. In prima pagina dell'edizione goriziana del Piccolo, la grave situazione dei migranti di cui ci siamo occupati anche noi, 150 in poche ore, questa volta si tratta di egiziani sbarcati dal sud Italia, arrivi di massa che saturano i centri d'accoglienza. A Lucinico cade dal terrazzino mentre effettua lavori nella casa dei genitori, ricoverato per fortuna in condizioni non gravi a Catinara, un cinquantenne. Poi la storia di Massimo Caramel, 23 anni, di Cormons, è primatista juniores italiano assoluto e ottavo al mondo in una disciplina che l'ha portato in Polonia, il lancio con il paracadute. I campionati del mondo di questa specialità si sono tenuti poco fa in Arizona, negli Stati Uniti. L'edizione di Pordenone del Messaggero Veneto vede in primo piano la notizia sulla classifica di Legambiente, che conferma il capoluogo della destra Tagliamento nei primi 10 posti, e la Fiera del Lavoro, pronta ad accogliere 7.000 ragazzi. Un richiamo è dedicato anche al ricorso in appello dell'uomo condannato per l'incidente del 30 gennaio in A28, nel quale persero la vita due cugine. L'edizione di Pordenone del Gazzettino apre sull'asse tra Italia ed Egitto in tema di gas e sull'incontro tra la premier italiana Giorgia Meloni e il presidente egiziano Al-Sisi. La cronaca del capoluogo punta invece sui dati del Ministero degli Interni, secondo i quali Pordenone è la città più sicura d'Italia. Di taglio la notizia del deposito della perizia sull'incidente nel quale il 21 agosto scorso aveva perso la vita il 15enne Giovanni Zanet. Secondo i periti, l'auto che lo ha investito viaggiava a 65 km orari. Una fotonotizia è poi dedicata ad una curiosità. Nella squadra del Sarone in seconda categoria, i gol contro il Porcia sono stati segnati da padre e due figli. Nell'edizione del Friuli, l'ultimatum di Fratelli d'Italia al sindaco Fontanini con la richiesta di sciogliere entro fine mese la riserva sulla sua candidatura. Ancora politica con la nuova segreteria del PD che premia la provincia di Udine. Di taglio l'incidente mortale di Manzano e una doppia rissa cividale, mentre la fotonotizia è dedicata alla richiesta dello stato di emergenza per la siccità. Una mostra fotografica e un convegno sulle attività di ricerca storico-archeologica svolte dall'Università di Udine nel Libano settentrionale saranno proposti nel capoluogo friulano oggi e domani. Sarà l'occasione per approfondire numerosi aspetti dell'area interna del Libano centro-settentrionale, una zona fiorente in epoca tardo-antica bizantina, caratterizzata da un ricco paesaggio antico, con un denso insediamento umano presente in maniera stabile sin dal terzo millennio avanti Cristo. A fine giugno la missione italo-libanese, diretta da Marco Iamoni dell'Università di Udine e da Mai Haider dell'Università libanese, ha concluso la sesta campagna di indagini archeologiche nel Libano settentrionale. Tracce di insediamenti risalenti almeno al quinto millennio avanti Cristo sono state rinvenute nell'area più interna della regione. È proseguito poi il lavoro di digitalizzazione del patrimonio artistico locale con il rilievo 3D laser del sito monumentale di Kasrna Husayn Akrine, caratterizzato dal doppio tempio di epoca romana. Saggi di scavo ad Amiun hanno infine confermato l'eccezionale ruolo svolto dalla città libanese fin dall'età del bronzo, riportando alla luce imponenti tracce di murature difensive risalenti probabilmente già alla fine del terzo millennio avanti Cristo. L'inizio del convegno questa mattina alle 9.45 a Palazzo di Toppo Wasserman a Udine. È stato posticipato allo spettacolo teatrale Gli ultimi giorni di Van Gogh, il diario ritrovato al Politeama Rossetti di Trieste. In programma originariamente per questa sera andrà invece in scena il 17 gennaio. Un evento ricorda oggi i 100 anni della marcia su Roma, preludio del colpo di Stato che portò al governo Benito Mussolini. Lo storico Raul Pupo e la docente Dunia Nanut dialogheranno con i giornalisti Enzo D'Antone e Pierluigi Sabatti, mentre Marco Puntin leggerà alcuni articoli dello scrittore Ivo Andrić, che sarebbe diventato premio Nobel per la letteratura nel 1961. I suoi scritti costituiranno il filo rosso attraverso il quale si parlerà del fascismo, delle sue origini e della marcia. L'appuntamento è per questo pomeriggio alle 18 al Teatro Miela di Trieste. Il 21esimo canto del Paradiso sarà protagonista della lettura Dantis che Stefano Di Brazzano terrà oggi alle 18 nella sede del Comitato di Trieste della società Dante Alighieri. L'ingresso è libero. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. Alle 11.10 la rubrica in friulano che parlerà del benessere digitale a scuola, il tema su cui quest'anno si stanno confrontando docenti, dirigenti e genitori nell'ambito del complessivo progetto della scuola digitale sostenuto dalla Regione. A seguire dalle 11.20 circa andrà in onda Radar, il Monte Canin, memoria di climi antichi. L'immaginario scientifico di Trieste raddoppia, il libro piccolo manuale per cercatori di nuvole e la rubrica Almanacco scientifico. Ed è tutto per questa prima edizione del nostro giornale radio. Per la parte tecnica in regia Eugenio Giuffrida e Sandro Gustin, in redazione ha collaborato Samantha Gon, da Lara Zani e da Elisabetta Zaccolo in studio. E un ringraziamento per l'attenzione. Noi vi diamo appuntamento al prossimo giornale radio delle 12.30 e vi auguriamo una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.